Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. E naturalmente c'è anche il web dove potete trovarci da tutte le parti del mondo scaricando l'apposita app che potete trovare sul sito Città Fujiko, radio cittafujiko.it, e la app è scaricabile gratuitamente, quindi potete tranquillamente farlo e ascoltare tutte le trasmissioni di Radio Città Fujiko appunto in tutto il mondo. E potete ascoltare anche Città Fujiko Live Club, che è la trasmissione che sta iniziando, anzi che è iniziato oramai con la solita sigla Lyle di Derek and the Dominos, e che vi propone un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25. E come sempre, o quasi, la trasmissione inizia con una novità. Oggi è una novità un po' particolare perché è un gruppo americano del quale credo pochi di voi hanno sentito parlare. Si chiamano Howling Rain, la pioggia ululante, e vengono da Oakland e sono attivi dal 2004, quando sono stati formati da Ethan Miller, chitarrista e cantante, che ha anche una propria carriera in proprio, una propria carriera solista, per cui ogni tanto la band viene accantonata per appunto permettere a Ethan Miller di andare avanti con la propria carriera solista, che a dire il vero non è che sia trascendentale. Mentre questi Howling Rain sono in ascesa, una band che si fa sempre più conoscere, fa sempre più proseliti grazie anche a un'incessante attività concertistica, e che sto parlando naturalmente sempre di un pubblico abbastanza circoscritto a quella che negli Stati Uniti viene chiamato college audience, diciamo i giovani americani che frequentano i college, che frequentano l'università, hanno una serie particolare, diciamo così, sia di radio che di bands che ascoltano, ma poi questi giovani cresceranno e magari rimarranno fedeli a questi Howling Rain. La band fa una serie, propone una serie ormai da diversi anni, è arrivata al numero 5, che si chiama Under the Wheels. I primi due numeri sono usciti solamente in vinile, gli altri invece sono usciti anche in CD, ed è proprio il numero 5 che vi propongo oggi. Si chiama Volume 5, Live from Pioneer Town, California, ed è stato registrato, guarda caso, proprio nella stessa città che dà il nome all'album, Pioneer Town, che è una piccolissima cittadina all'interno del deserto californiano. È stato registrato l'11 dicembre del 2021 e fa vedere proprio tutta la in un locale, fra parentesi scusate, che si chiama Peppy and Harriet's, e questo dischetto dimostra pienamente quelle che sono le qualità della band, ma anche quelli che sono i difetti, perché ci sono anche quelli. Il brano che ho scelto per voi per farvi conoscere questi Howling Rain, scusate, è un pezzo che si chiama Annabelle. Thank you. Due chitarre, basso e batteria era l'incarnazione di questi Howling Rain la sera dell'11 dicembre 2021, quando a Pioneer Town in California registrarono il quinto volume della serie Under the Wheels. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Annabelle. E c'è un motivo per cui ho scelto questo brano per farvi conoscere gli Howling Rain, ma anche perché, essendo alla ricerca sempre di avere un filologico che unisca i brani che compongono la prima parte di Città Fujiko Live Club, ho scelto appunto Annabelle come nome di donna. Infatti, in questa prima parte, che oramai sta scivolando via velocissimamente, ci ascolteremo canzoni che hanno nel titolo il nome di una ragazza, e però, come capite benissimo, ce ne sono miliardi, veramente tantissimi brani hanno il nome di donna nel proprio titolo. e parlano chiaramente altrettanto di donne, e quindi la cerchia, essendo Annabelle il pezzo che ci siamo ascoltati, si è ristretta ai nomi di ragazze che iniziano con la lettera A. E andiamo subito velocissimamente con Anime. Di lei ci racconta un grandissimo della musica blues che risponde al nome di Taj Mahal. Ha fatto un album che si chiama Live Catch, in realtà attribuito al Taj Mahal Trio, dove appunto ci parla di questa Anime, Taj Mahal. Watching you. Now the first time I met Annie Mae, she wasn't 17 years old. Curly hair and shapely hips, big fine legs, she was good to go. Had me holler, Annie Mae. Honey, can't you hear me calling you? Every time I catch you, oh, you know what your daddy wanna. Honey, can't you hear your daddy calling you? Honey, can't you hear your daddy calling you? Every time I see you, honey, now you know what your daddy wanna do. Thank you. E dalla Annie May di Taj Mahal siamo passati invece alla Alice May di Earl Burnside, quindi da grande bluesman a altrettanto grande bluesman. Earl Burnside è un personaggio veramente incredibile, che a parte la pletora di figli che ha lasciato in giro per il mondo e tutti ottimi musicisti, però ha avuto successo solamente in tarda età, grazie anche al riconoscimento della sua influenza fatta da tante bands dei giorni nostri, non ultimi Nor Mississippi All Stars. Il pezzo che ci siamo ascoltati, appunto Alice May, è tratto da un album che si chiama Burnside on Burnside. È un gioco di parole, perché Earl Burnside, appunto il titolare di questo album, è stato registrato il 21 gennaio del 2001 al Crystal Ballroom di Portland, che guarda caso è su Burnside Street. Però grazie. Allora, a questo punto Diego mi spoglia. Diego piace spogliarmi. Sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastica quando sei assorta. I tuoi problemi e i tuoi pensieri resti svogliatamente non te. Quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Se non altro, qualche volta per pensieri strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo. Thank you! E niente male per un montanaro di Zocca, sto scherzando naturalmente, ma soprattutto niente male la sua magnifica band con questo finale incredibile di Alba Chiara. Il tutto fra parentesi registrato in trasferta, perché questo è un album che è stato registrato all'Hammersmith Apollo di Londra il 4 maggio del 2010, si chiama Vasco London Instant Live ed è come tutti i concerti di Vasco Rossi negli ultimi anni, concluso, ma anche nei primi, concluso da questa Alba Chiara, che inizialmente era una canzoncina acustica tranquilla, poi avete sentito invece cos'è diventata nel corso degli anni. Andiamo però a questo punto in Gran Bretagna, esattamente alla Royal Albert Hall di Londra, dove in concerto troviamo questi Arctic Monkeys, esattamente il 7 giugno del 2018. Questa band che viene da Sheffield ed è attiva dal 2002 ed ebbe già un grande successo addirittura prima di pubblicare l'album d'esordio, grazie a un sacco di video che avevano e pezzi che avevano messo su internet prima appunto di avere un contratto discografico. Ce l'andiamo ad ascoltare, loro ci parlano, Arctic Monkeys, di una certa Arabella. Got some interstellar gator skin boots and a helter skelter and a little finger, and I ride it endlessly. She's got a Barbarella silver swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days end best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Arabella just might have tapped into your mind and soul. You can't be sure. Arabella's got a 70s head, but she's a modern lover, it's an exploration she's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge, and I kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Underneath it, I hope, asking if I can have one of those organic. E questa era l'inconfondibile voce di Johnny Lydon, o Johnny Rotten, chiamatelo come volete, anche se Johnny Rotten appartiene al periodo Sex Pistols. Qui invece siamo con i Public Image Limited, detti anche PIL per gli amici, e una registrazione effettuata a Rock Palast, una trasmissione televisiva tedesca nel 1983, e il buon Johnny Lydon ci ha parlato di questa Annalisa, come dice lui, che dà il titolo a questa canzone, registrata il 31 ottobre appunto del 1983. Ormai un veterano, anzi forse qualcosina di più, Elvis Costello, ma nel 1978, esattamente il 4 giugno, era in concerto a Hollywood, in un locale che si chiama Hollywood High, e da lì fu tratto un famoso promo che circolò a prezzi incredibili nel periodo, sto parlando di vinile naturalmente. Poi in tempi più recenti, la vedo al volo, esattamente nel 2007 è stato ripubblicato in versione CD con il concerto completo, ed è un gran bel andare, anche perché era il periodo in cui Elvis Costello era più sanguigno, era anche fra l'altro insieme ai suoi Attractions, che è una grandissima band tuttora. E fra le altre cose, il buon Elvis Costello and the Attraction naturalmente ci fanno ascoltare quello che all'epoca era uno dei loro grandi successi, si chiama Allison. Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. You look, I understand that you were not impressed. I'd you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other sticky Valentines. Cause I don't know if you were loving somebody. Oh no, no, it isn't mine. Your pretty fingers lying in the wedding cake. You used to hold them right in your hand, but it took all you could take. Sometimes I wish that I could stop you from talking when I hear the silly things that you say. Think somebody better put out the big light, 'cause I can't stand to see you this way. On the rise, sitting on the porch. Questi erano Brandos, una band che viene da New York, è attiva dal 1985, ma come in molti casi è rimasto solo un membro originale, il capo, il leader, David Kincaid, voce e chitarra. Loro sono molto più famosi in Olanda e in Europa in genere che nati a New York, e infatti hanno registrato questo album che non a caso si chiama In Exile, in esilio, ad Amsterdam il 20 dicembre del 1994. Il pezzo si chiama Anna Lee. Vado molto velocemente perché il tempo sta stringendo. Adesso arrivano i grandi Los Lobos, che concludono questa piccola rassegna di brani con il nome di ragazza che inizia per A nel titolo. Ce ne sono ancora tantissimi, avrei spazio anche per un altro paio d'ore almeno, ma andiamo a concludere questa prima parte con i Los Lobos, che ci presentano loro stessi il brano che ci andiamo ad ascoltare. David Hidalgo ce lo dice. All right, this next song next song goes out especially to you, and it's called Anselma. It goes out to Santa Barbara. One, two, three. Cuando te cases con el otro iré a tu boda. Cuando pregunten enseguida me opondré. Cuando pregunte el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Al fin y al cabo yo no le temo a no muerte, y voy al bote porque soy la autoridad. Visite o te mando a los que la... ¡Ajúa! ¡Oye! Y si te llegas a matrimoniar conmigo, les quito el rato y propiedad a tu papá. Les pongo mis pesos y hasta les quemo la casa. Por algo soy aquí la autoridad. Desde mi mano entro en este municipio. Yo te lo digo por si quieres escapar. Ahí en el otro el que va en la vitiligio. Yo mal la aviso y te tiene que agarrar. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares. O dejas que te visite. We'll be right back. Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi 15 marzo 2023, seconda parte che è iniziata naturalmente con la novità che vi propongo quest'oggi, una band che si chiama Howling Rain, è il quinto volume della serie Under the Wheels, registrato dal vivo al Pioneer, Pioneer Town in California. L'11 dicembre 2021 sono solamente 6 pezzi, ma 6 pezzi che contano in alcuni casi anche una ventina di minuti di durata. Il pezzo che ci siamo ascoltati, Dancers and the End of Time, è un esempio lampante della musica di questa band, che non è molto conosciuta dalle nostre parti, ma a dire il vero neanche negli Stati Uniti, anche se, come dicevo in precedenza, la sua fama è in continua ascesa grazie a una serie di concerti incessante. Ma come sempre nella seconda parte arriva Record Today, i brani che sono stati registrati nella giornata odierna, nello specifico 15 marzo, nel corso degli anni. E ancora una volta, a costo di essere tedioso, tantissime cose registrate in questo giorno, il criterio di scelta è un brano per ogni decade. E iniziamo subito la grandissima, siamo nel 1979, i primi passi dei Talking Heads per farsi conoscere a livello mondiale, e anche la Warner Bros, la loro casa discografica, è d'accordo e quindi invia alle radio un promozionale, un long play, un vinile, sto parlando perché appunto siamo nel 79, per far conoscere la band e le sue potenzialità dal vivo. Infatti è stato registrato alla Agora di Cleveland, esattamente il 15 marzo del 1979, questo promozionale dal quale ci andiamo a ascoltare New Feeling. Thank you. Nets, quindi live in quella dell'Agorà di Ballroom, anzi l'Agorà Ballroom di Cleveland, Ohio. Il pezzo si chiama New Feeling ed è parte di questo promozionale che, come dicevo in precedenza, la Warner Brothers, la loro casa discografica, mandò alle case discografiche, alle radio, per da trasmettere naturalmente, per fare valorizzare la parte live della band, che all'epoca era ancora abbastanza acerba. Dopo poi sarebbe arrivato naturalmente il grande Remain Light, questa è un'altra storia. Qui siamo al quartetto secco bresco, come si dice dalle nostre parti, ma è sempre un gran bel sentire. Passiamo al 1984, il buon Paul Weller, in uscita dai Jam nel 1983, formò insieme a Mick Talbot, che era stato tastierista nei Dexys Midnight Runners, fondò insieme a lui gli Style Council, che dal 1983 durarono fino al 1989. Fecero in tempo a fare un paio di album notevoli, ebbero un grande successo soprattutto in Gran Bretagna. E questo album, che si chiama In Concert, è stato registrato in diverse parti della Gran Bretagna, appunto, fra cui il 15 marzo del 1984, appunto, una registrazione effettuata al Dominion Theatre di Londra. Un brano che, oserei dire, purtroppo è un po' preveggente, parla di una lunga estate calda che evidentemente è quella che ci aspetta. Hot Summer, Hot Long Summer, loro sono Style Council. Just to pass me by. Dal Council di Paul Weller e Mick Talbot, dal vivo al Dominion Theater di Londra. Il brano si chiama Long Hot Summer, era il 15 marzo del 1984. Velocissimamente arrivano adesso i Flower Kings, una band svedese attiva dal 1994, che però troviamo in trasferta in Giappone, addirittura in un locale che si chiama On Air West a Tokyo naturalmente. E il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Three Stories, è stato registrato il 15 marzo del 1999, Flowers King. Thank you. Eric Clapton che suona Jimi Hendrix, sembra un bel andare. Little Wing, il pezzo che ci siamo ascoltati, ma spero che non ci sia bisogno di presentazioni, da un doppio dischetto che si chiama Live in San Diego with special guest J.J. Cale. Ho fatto ascoltare questo brano e non qualcosa di J.J. Cale, perché a lui magari sarà dedicato qualcos'altro di più importante, diciamo, in un prossimo futuro. L'album, come dice il titolo, è stato registrato a San Diego il 15 marzo del 2007, però è stato pubblicato solamente nel 2016 e ha un piccolo difetto: è bellissimo, è veramente uno degli album più belli che Eric Clapton abbia fatto nella sua carriera. È un album in cui lui è tostissimo con la chitarra, fra l'altro affiancato da Doyle Bramall II e da Derek Trucks, per cui è un bel andare veramente. Lo consiglio caldamente. Live in San Diego, Eric Clapton, il pezzo era Little Wing, 15 marzo 2007. Veniamo a Bologna, qui dalle nostre parti, prendiamo la bicicletta e andiamo all'Estragon, dove il 15 marzo del 2014 festeggiavano il 20° anniversario dell'uscita del loro primo album, che si chiama Riportando Tutti a Casa, i Modena City Ramblers. Una carriera ormai lunghissima, innumerevoli cambi di formazione, con molti ritorni e molte uscite di nuovo. L'unico membro originale è rimasto, anche in questo caso ce n'è uno solo, si chiama Franco Daniello, suonava inizialmente il tin whistle, poi nel corso degli anni ha suonato anche un altro numero molto alto di fiati in genere. Sono appunto 20 anni dall'uscita di Riportando Tutti a Casa, che però devo dire, uscì in precedenza solamente in cassetta, poi dopo fu pubblicato anche ufficialmente in album. Dicevo, Modern City Ramblers, ce ne andiamo ad ascoltare in un brano che, come dicono loro, prima di partire, da molto tempo non facevano più in concerto, ma in questo caso l'hanno rispolverato ed è un bel rispolvero, si chiama Contessa. All'industria di Aldo han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti, volevano avere i salari aumentati, dicevano pensi di essere sfruttati, e quando è arrivata la polizia quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato i cortili e le porte. Chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dei campi e dalle auto scendete giù in piazza e picchiate con quello, scendete giù in piazza ed abbassate il sistema. Voi gente per bene che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finire sotto terra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno di un mondo deve essere ascoltato. Che cosa mi ha detto un caro parente dell'occupazione? Che quella gentaglia rinchiusa là dentro di libero amore faceva professione. Del resto, mia cara, di che si stupisce? Anche l'operaio vuole il figlio dottore. E pensi che ambiente ne può venir fuori? Non c'è più morale, contessa. Se il vento fischia ora fischia più forte, vedevi rivolta non sono mai morte. Se c'è chi lo ferma non stavi a sentire, è uno che vuole soltanto tradire. Se c'è chi lo ferma scuotategli addosso, la bandiera rossa gettato in un fosso. Voi gente per bene che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finire sotto terra. Ma se questo è il prezzo che abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Modena City Ramblers, un brano scritto da Paolo Pietrangeli che in seguito poi andò a lavorare per Mediaset, non ho mai capito come potesse farlo, ma comunque l'ha fatto per tutto il resto della sua vita. E in questo caso invece siamo appunto a Bologna, l'Estragon, 15 marzo 2014, con questo classico della musica popolare, oserei dire italiana, appunto Contessa, di Paolo Pietrangeli, eseguita dai Modena City Ramblers. A concludere Città Fujiko Live Club e Record Today contemporaneamente ci penserà una band di veterani che risponde al nome di US Rails, ma prima un piccolo aggiornamento, nel senso che ho detto qualche settimana fa che sarebbero usciti due album live dei Genesis, un cofanetto e un doppio live. Il cofanetto è uscito ed è un quintuplo CD che però è praticamente di quella che io chiamo la Phil Collins Group, la band seguente i veri Genesis, quelli dopo la dipartita di Peter Gabriel. C'è solo un brano che è con lui, che è Watch of the Sky. Il secondo invece si chiama Watch of the Sky Live, ma è uno di quegli album al limite della legalità, sono trasmissioni radiofoniche, non so quanto possa essere interessante. È interessante invece il fatto che, dopo che ho detto sempre alcune settimane fa che ero un po' preoccupato per Joe Bonamassa perché non aveva pubblicato niente dal vivo in tempi recenti, a giugno uscirà un suo album live, mentre in aprile ne usciranno due di Neil Young, quindi c'è già di che stare allerta. Ma andiamo a concludere quindi con questi US Rails di quali vi ho anticipato. Sono quattro veterani che arrivano da Philadelphia e anche loro sono più famosi in Europa, specificatamente in Germania, che in patria. Sono attivi dal 2010 e questo che vi propongo si chiama The Last Call at the Red River Saloon. È il loro secondo album live, malgrado il nome Red River Saloon. Questo saloon si trova in Germania, a Heilbronn, e questo album è stato registrato il 15 marzo del 2020. Il pezzo che vi propongo è il pezzo di apertura, si chiama Eagle and Crown. Loro sono US Rails, però prima vi ricordo naturalmente che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni venerdì dalle 10.30 in poi sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Città Fujiko, di Radio Città Fujiko, scusate, e naturalmente anche nel web con l'apposita app che potete scaricare dal nostro sito. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Loro si chiamano US Rails, il brano invece si chiama Eagle and Crown. Ciao a tutti da Nevio. One, two, one, two. Sky. Some living like kings, yet some barely take flight. Some gonna scout, steal from the land. Some got the power in the palm of their hand. Some gonna live out. Are you here?